La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. L'articolo 96 riguarda la responsabilità ministeriale, cioè riguarda il procedimento con cui devono essere giudicati il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Inizialmente l'articolo 96 prevedeva che i reati ministeriali venissero giudicati dalla Corte Costituzionale. Per questa ragione, alla fine degli anni 70, andò in Corte Costituzionale il cosiddetto caso Lockheed. Il caso Lockheed era un caso di corruzione nell'acquisto di aerei militari, appunto prodotti dalla Lockheed, che portò dinanzi alla Corte Costituzionale due ministri, i ministri Gui e Tanassi. In quel caso, il processo dinanzi alla Corte Costituzionale fu un processo molto lungo e articolato, che tuttavia riguardò reati essenzialmente comuni, perché era un reato di corruzione. Ecco allora che ci si pose il problema, nel corso degli anni Ottanta, di capire se l'articolo 96 fosse ancora da applicare in questo modo, perché la riserva di un giudizio sui reati ministeriali ad un tribunale particolare è dovuta alla possibilità di valutare la politicità del fatto. Cioè, può capitare, ed è legittimo che capiti, che un Presidente del Consiglio o un Ministro compia degli atti che possono anche essere in contrasto con la legge, ma lo faccia nell'interesse pubblico. Per esempio, si racconta che durante la Prima Guerra Mondiale, l'allora Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, fece puntellare il Maschio Angioino di Napoli con dei fondi fuori bilancio e quindi commettendo un reato. Ma in quel caso il comportamento ministeriale aveva una rilevanza politica e quindi occorreva un tribunale speciale che potesse valutare innanzitutto la politicità dei fatti per poi valutare la responsabilità giuridica. Ecco allora che, apparso troppo complicato il sistema del rinvio alla Corte Costituzionale, proprio verificatosi durante il caso Lockheed, la speciale responsabilità penale dinanzi alla Corte Costituzionale è rimasta solo per il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Invece, per i ministri e per il Presidente del Consiglio, è stato creato il cosiddetto Tribunale dei Ministri, cioè non vengono giudicati da un tribunale in composizione normale, ma è un tribunale composto sempre da giudici ordinari in composizione particolare, mentre la valutazione politica avverrà in sede parlamentare, nel senso che il rinvio a giudizio per questi reati sarà sempre previa autorizzazione del Senato o della Camera, in maniera che lì si consumi la valutazione politica del fatto.